caldo estivo alla fine d'aprile che riscalda l'anima. Ritmo del lavoro piega ogni matura percezione. Memorie di quando innamorarsi era nuovo e la scuola era casa. Ma ora non più, gli schemi sbiadiscono, pensieri indipendenti nel buio si accendono. Senza un ritorno, quando egoista è ciò che discute.